dorime, interrimo ad appare dorime, ameno, ameno, lanciremo dorime, ameno, o mandare in perra via, ameno, timere, timere, mangiremo, ameno.